Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, quindi è sempre un piacere ritrovare una voce ormai amica da più di qualche anno con noi, il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi parliamo di una vicenda che è capitata a una persona che si è rivolta all'Adico per avere un sostegno. È una vicenda, come è già capitato, insomma, di trovarsi a pagare qualche cosa per qualcuno che non c'è più. Sì, è il tipico caso di doppie fatturazioni, chiamiamole così, ma forse neanche proprio, in quanto in questo caso parliamo di una persona che purtroppo è defunta, ma la compagnia telefonica, che era Teletu, ha continuato a mandare richieste di pagamento e di fatture a questa persona, la quale ha avuto come conseguenza che i figli si sono rivolti presso i nostri uffici per cercare di porre fine a questa situazione, perché è veramente paradossale, anche se devo dire che come situazione non sono casi isolati, perché purtroppo di queste tra virgolette malvicende l'Adico ormai è abituata a riceverne ogni giorno. Ecco Carlo, una domanda che mi viene spontanea è forse i figli di questa persona non avevano chiuso il contratto una volta che era morto il loro genitore, oppure in automatico queste cose avvengono perché il comune avverte, non lo so, come funziona? Allora, innanzitutto appena il padre è morto ci fa sapere il figlio che si è rivolto all'Adico. Addirittura pochi giorni dopo hanno cominciato a arrivare bollette di consumi mai effettuati, e addirittura, oltre a spiegare che questi soldi non erano dovuti, la persona ha dichiarato e dimostrato che insomma ha fatto tutte le pratiche correttamente, cercando insomma di comunicare il fatto che il padre è defunto, per cui la cessazione del servizio. Nel frattempo Teletu è passata sotto la Vodafone, la quale, a prescindere quella che possono essere colpe o meno, ha acquisito quelle che erano le posizioni aperte, le quali poi a sua volta le ha trasmesse a una società di recupero crediti, le quali comunque ad oggi, per colpa di chi o di cosa, diciamo che siamo arrivati nella situazione paradossale che questi figli hanno da pagare bollette per consumi mai effettuati di una persona defunta per un valore di circa 300 euro. Ed è questo il tipico caso, ma come detto non è l'unico, di problemi di cui l'Adico ogni giorno si occupa, di problematiche riguardanti le bollette. Certamente il fatto che in questo caso ci sia una persona defunta forse rende la situazione in per sé, ecco, più diciamo sensibile rispetto ad altre. Certo, immaginiamo. La cosa che consigliamo allora in questo caso quale potrebbe essere? Se ahimè ci deve capitare la dipartita di qualche parente che magari vive solo, e interessarsi subito per andare a chiudere tutte quelle cose aperte come gas, corrente, telefono e quant'altro? Sì, certamente quando accadono queste cose la cosa più importante è subito chiudere tutti i contatori, magari trasmettere anche un atto di morte nel caso che ci siano persone che appunto capitano che muoiono, oppure diciamo che quando si arriva comunque a dover pagare delle bollette che non sono dovute è sempre preferibile, prima di decidere di non pagare, mandare sempre una comunicazione alla quale si pretende un chiarimento della situazione, e soprattutto anche evidenziando come la situazione in sé si è determinata non certamente per negligenza dell'utente ma per colpa del fornitore. In questo caso il signore, per carità, ha fatto tutte le cose giuste e correttamente, probabilmente il subentro di un'azienda con un'altra azienda, di una posizione che magari in maniera un po' superficiale è ancora aperta e qualcuno con troppa semplicità ha pensato di doverla continuare a tenerla aperta senza verificarne la condizione reale del signore. Il fatto comunque che è notizia di ieri che la compagnia telefonica si è rivolto a noi per avere i riferimenti della persona, perché sembra intenzionata a voler chiudere questa cosa, ci fa capire come alla fine si tratti solamente di, mettiamola, qui pro quo rispetto a quella che poi è una situazione in cui magari come unica vittima abbiamo solo un ignaro utente. Certo è che troppo facilmente e spesso capitano questi casi in cui l'utente non riesce mai a venire né a capo, e purtroppo scopriamo sempre che i call center o quelli che sono anche i servizi dislocati nella zona non sono mai in grado di risolvere le problematiche, ma semplicemente di complicarle. Capisco, vabbè, insomma, l'Adico fortunatamente esiste, l'associazione difesaconsumatori.it è il vostro sito, e quindi se uno dovesse incappare malauguratamente in qualche vicenda simile, insomma, una telefonatina a voi e un aiuto lo può sempre trovare. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, l'appuntamento con l'associazione difesa consumatori di Mestre è per la settimana prossima. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.